Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, cari amici. Ogni venerdì noi parliamo di sport, ci facciamo aiutare da grandi atleti, vi mettiamo a disposizione psicologi, personal trainer, comici, fisiatri e il grande dottor Franco Confalonieri. Buongiorno a lei. Buongiorno, ben ritrovati tutti. E sentite cosa mi è toccato leggere. Gli italiani, popolo di santi poeti e navigatori, ma con poco feeling con lo sport. Solo uno su cinque pratica un'attività sportiva con continuità, mentre il 10,2% vi si dedica saltuariamente. Questo è quanto emerge dall'annuario statistico 2010 pubblicato dall'Istat. A ingrossare le fila dell'esercito dei sedentari, che rappresentano il 38,3% del campione, sono le donne. In posizione intermedia si colloca un'importante fetta di popolazione, 28,2%, che svolge almeno qualche attività fisica, come fare passeggiate, nuotare o andare in bicicletta. Ma la pratica sportiva mostra delle differenze significative lungo lo stivale. Il 26,6% della popolazione residente al nord dichiara di praticare sport con continuità e il 12,2% in modo saltuario, mentre nel mezzogiorno si scende rispettivamente al 16,8% e al 7,8%. Anche per quanto riguarda l'attività fisica, le quote maggiori di praticanti si riscontrano nel nord, con il 32,2%, mentre nel mezzogiorno il valore scende al 22,9%. Allora, cari amici, abbiamo buone ragioni per rimboccarci le maniche. Niente scuse, i dati, vabbè, si commentano da soli, però direi non facciamoci prendere dai sensi di colpa, ma qualche cosina in più potremmo farla. Mi rivolgo a chi sullo sport ci ha messo un pietrone sopra, per invitarlo a ripensarci, ma anche allo sportivo amatoriale che si trova un po' frenato, insomma, a chi dallo sport vorrebbe qualcosa di più, ma per colpa del fisico o della testa, anche questa sappiamo conta, non riesce ad ottenere. Sappiamo come si può fare e noi vogliamo affidarci ai consigli del dottor Franco Confalonieri, medico sportivo, responsabile del centro sportivo di DS, non lo dico più. No, ormai mi conosco. Basta, chiamiamolo Franco, e del dottor Riccardo Minola, che è qua in studio con noi, responsabile dell'unità operativa di ortopedia, sezione seconda, istituto clinico Sant'Ambrogio di Milano, ma past president della Società Italiana di Artroscopia. Buongiorno anche a lei, dottore. Buongiorno a voi. 800 24 0024. I messaggi al 349 238 6666. Allora, attivatevi subito, dato che siete in due. Il compito era abbastanza difficile, per cui abbiamo chiesto manforte al dottor Minola. Dottor Confalonieri? Ma sì, io come tradizione parto con una domanda per coinvolgere i nostri ascoltatori perché ci diano una mano. Cioè, tanti non ci provano nemmeno a fare sport, però molti ci provano, ci hanno provato e poi hanno mollato tutto. E oggi vorremmo proprio dare una mano a loro, anche perché la loro esperienza serva a tutti gli altri. Quindi io inviterei proprio tutti coloro che hanno provato a fare sport, che hanno cominciato, magari hanno proseguito anche a lungo e poi hanno dovuto interrompere, a raccontarci perché hanno smesso di fare sport, perché non hanno continuato, perché l'entusiasmo degli inizi si è spento. La famosa storia d'amore. Esatto, questo parallelismo fra amore e sport che abbiamo fatto spesso. Perché non siamo passati dall'innamoramento all'amore? Ecco, per dirla con parole tue. E così magari partendo dalla loro esperienza riusciamo ad aiutare tanti che ci ascoltano. Perché il vostro innamoramento per lo sport non si è trasformato in amore e quindi non si è trasformato in un rapporto stabile. Dottor Minola, adesso non so se lei vuole continuare con una poesia di Prevere oppure ci stupisce con un effetto speciale. No, è giusto quello che dice Franco. La cosa più bella dello sport è l'energia che ti dà, il senso di consapevolezza che puoi migliorarti continuamente. E credo che questo, se nel corso della vita di una persona giovane fa parte di quell'entusiasmo, di quella passione che diceva Franco, c'è un altro momento della vita in cui senti che il tuo fisico cambia e tendi a subire questo cambiamento. L'occasione speciale dello sport è di avere questa seconda opportunità con se stessi. Allora, voi mi state parlando molto bene dello sport, ma io voglio farvi ascoltare un vostro esimio collega argentino. Non sabe, io viene da Buenos Aires, io è un professore argentino, mi occupa in università già da molto tempo dell'argomento del sport. Io è un scienziato, un studioso di questo argomento e io va già dicendo quello che io penso è una missione, se deve dire in tutte le parti del mondo il sport fa male. Sì, se deve avere il coraggio di dire e il sport fa male. E in quest'epoca del salutismo esasperato, tutti vuole stare in forma, andare in palestra, se deve avere il coraggio di dire e il sport fa malissimo. Sì, e il sport fa male fisicamente, fa male alla gamba, fa male alla schiena, fa male al cuore, fa male al polmone. Non c'è una parte del corpo che il sport non ne fa male, sì? Ogni sport si specializza a massacrarti un organo in particolare, sì? Ma tutto il sport globalmente fa veramente male. Quasi ride. A me piace molto, l'avete riconosciuto, era Joelle Dix, magnifico, e devo dire che io sono un po' d'accordo con lui. Lo sport può far male, anzi farci male, intendendo magari un incidente, quella tegola, no, che ti arriva tra capo e collo, e magari gli infortuni, insomma, non fa male a tutto, ma sicuramente dopo che facciamo un po' di attività sportiva e siamo stati per tempo insomma fermi un po' in garage, siamo tutti rotti, dottor Confalonieri, questo me lo conferma anche lei. E poi insomma lo sport presenta anche dei rischi. Ma diciamo che sicuramente questo medico argentino... Lei è d'accordo con l'argentino? Ma no, diciamo che è affascinante, che la parte debole, la parte poco determinata del mio carattere, della mia personalità vorrebbe seguirla, come credo la parte debole e poco determinata del carattere di tanti ascoltatori. Io correggerei un po', beh, con certo, una delle frasi che è diventata un po' simbolo anche di questa trasmissione, e cioè che lo sport fatto male fa male. È che è molto facile fare male lo sport, questo sì. Cioè per gran parte delle persone lo sport fa male perché è fatto male. E quindi dovremmo evitare di fare male lo sport. Dovremmo evitare di farne troppo. Dovremmo evitare di farne troppo subito. Dovremmo evitare di fare lo sport che non ci fa bene. Questa è un po' la strada. Quindi dovremmo scegliere lo sport più adatto alle nostre caratteristiche, meno controindicato rispetto ai nostri fattori di rischio, più congeniale ai ritmi della nostra vita, ai nostri gusti, ai nostri tempi, perché allora è uno sport fatto bene, è uno sport che occupa poco spazio, è uno sport che ci fa piacere, è uno sport che migliora la qualità della nostra vita, è uno sport che non ci stressa, è soprattutto uno sport, come diceva giustamente il dottor Minola, che ci fa amare di più il nostro corpo e noi stessi, perché poi il segreto è quello, stare meglio con noi stessi. Se attraverso lo sport noi ci delegittimiamo o ci sentiamo meno competitivi, meno belli, meno bravi, lo sport non funziona. Se attraverso lo sport riscopriamo un corpo a cui vogliamo più bene, probabilmente lo sport ci fa bene. Ecco, quindi correggerei un po' l'affascinante tesi del medico argentino interpretato da Joelle Dix in questo senso. Iniziamo ad agio e scegliamo lo sport giusto. Andiamo a Max che ci chiama da Milano, 800 24 00 24. Buongiorno Max, benvenuto. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Io volevo dare un po' una mia personale esperienza, nel senso che io ho fatto fino ai 30 anni, 31 anni diversi sport, jogging, trekking, ho fatto box, canottaggio, ho fatto di tutto. Poi in concomitanza di una delusione amorosa ho avuto proprio un rigetto e poi buttandomi ovviamente a capofitto per la carriera professionale, quando, adesso ne ho 42 di anni, ho fatto questo gap di quasi 12 anni dove ho tentato diverse volte di andare a far sport, però proprio mi mancava l'energia, cioè ho preso integratori, ho cercato di concentrarmi, ma io arrivavo in palestra che mi vestivo, andavo, iniziavo a fare ginnastica e fisicamente non ce la facevo. Dopo 10 minuti tornavo negli spogliatoi, mi rivestivo e me ne tornavo a casa. Senta Max, prima di lasciarla magari all'indicazione del dottor Minola, ma poi la fidanzata? No, no, poi mi sono sposato, ho un bellissimo bambino, sono bellissimo. Okay. Però la carriera professionale mi ha assorbito tanto. E forse anche in funzione di questo, nonostante tutti dicano ci si sfoga, fa bene, io quando arrivavo in palestra non avevo più risorse per poter fare, diciamo, attività fisica. E, dottor Minol, è un alibi questo o ci sono delle persone che proprio hanno veramente questo problema, la mancanza di energie? La domanda dell'ascoltatore è molto intelligente, perché ha posto il problema del rapporto dell'energia che serve a fare l'attività fisica. E l'altro aspetto che non viene considerato è l'importanza dell'alimentazione. Quindi per fare l'attività sportiva, per avere una buona attività fisica e più in generale per avere una buona giornata che si può concludere o iniziare con la palestra, con l'attività fisica, bisogna avere una corretta alimentazione che ci dia quell'equilibrio energetico. Questa è una è l'altro aspetto che rende che stimola la nostra intelligenza nel fare attività sportiva. Quindi il consiglio che gli posso dare è di tenersi un piccolo diario settimanale o di 2 settimane della sua alimentazione, dando un voto ai livelli di energia durante la giornata, e poi di consultare un medico sportivo nutrizionista, perché lo sport ha sviluppato un'intelligenza nell'insegnare l'uso del cibo pro energia che è eccezionale, e allora quel medico riuscirà a capire se c'è un bacco nella sua alimentazione. Il vantaggio per lui sarà più energia, un senso di benessere e la possibilità di ritornare in empatia con se stesso, perché fare attività fisica migliora l'autostima. Ah, questo è assolutamente provato e raccontato dai molti dei nostri ascoltatori che ci scrivono delle mail, tanto che io poi sono rimasta un po' male da questi dati Istat, anche il dottor Confalonieri, perché noi abbiamo ascoltatori che ci scrivono appassionati di sport e poi eccoli che cadiamo. Enrico, davvero una buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Buongiorno a lei Enrico. Allora, la mia esperienza che volevo condividere con voi è questa. Io di statura sono molto, molto minuto, faccio 1,58 m, ma da piccolo questo essere limitato nella statura, sì, mi ha sempre provocato un'avversione davvero fisica verso chi magari mi guardava un attimo così, erano subito botte, oppure faceva la battutina, erano subito botte. Sì. Fino a che a 12 anni i miei hanno pensato bene di, ah guarda, c'è una palestrina di karate che magari potrebbe farti convogliare sta roba, ed ero arrivato tra virgolette al punto di odiare anche i genitori, perché sono così piccolo io e gli altri invece svettano, no? Sì. E vi dirò che sta cosa, subito sono entrato in sta palestra, tutto sto rigore, questo coso, mi ricordo che non sono andato molto contento, ma sì, già subito dalla prima volta sta cosa qua dello sport unito alla disciplina, unito all'autocontrollo, unito al rispetto forzato comunque delle regole e sto coso sacrale per gli altri, mi ha aiutato non solo a cambiare e a diventare una persona che nel tempo ha usato lo sport per essere migliore come persona, ma anche a capire che comunque una persona minuta nell'altezza ha delle potenzialità che una persona alta, a parte la schiena, le posture, tutte queste cose qua, ha molta più difficoltà a ottenere. E perciò mi sono riscoperto nel corso degli anni ad avere delle potenzialità che gli altri, diciamo, non avevano, potevano, vede. Dottor Confalonieri, grazie. Sì, è molto bella questa telefonata, è molto bella anche perché è in linea con quello che ci siamo raccontati fino adesso. Cioè lo sport come strumento per aumentare la propria autostima. Cioè qualsiasi caratteristica fisica, psicofisica o in genere della nostra persona può essere un handicap in determinate situazioni o un plus, qualcosa in più in altre situazioni. Rispetto alle arti marziali sicuramente il fatto di essere piccoli, però anche essere agili, veloci, scattanti, molto coordinati, rappresenta qualcosa in più rispetto agli altri. E quindi la scelta dello sport giusto in questo caso e all'età giusta per Enrico ha rappresentato la possibilità di recuperare un rapporto con la propria corporeità assolutamente nuovo. Ed è un po' in linea con quello che diceva prima il dottor Minola, cioè lo sport come elemento per aumentare la propria autostima attraverso un recupero di un rapporto diverso con la propria corporeità, che alla fine è molto molto importante per ciascuno di noi. Assolutamente, quindi i nostri ascoltatori che sono ancora un po' indecisi, sono in una posizione di stallo, stanno ripensando al loro rapporto con lo sport, magari vogliono avere dei consigli per scegliere quello che in questo momento della loro vita, considerata proprio gli impegni, lo stress, le esigenze che sappiamo cambiano di anno in anno, di decade in decade, potete chiamarci all'800 24 00 24 perché il dottor Confalonieri e il dottor Minola, ma anche che voi da casa con le vostre esperienze, con i vostri suggerimenti potrete aiutarci. Intanto io vorrei attivare i nostri ascoltatori a intervenire per dei bisogni specifici, ad esempio a chi si è fatto male e ha dovuto proprio chiudere con lo sport. Questo tante volte, dottor Minola, sembra un po' una scusa per non ricominciare. Il dottore mi ha detto che non posso. Esatto. Eppure poi ci sono tutti i dottori che dicono no, continuate a fare sport. Quindi bisogna capire esattamente che cosa ha detto quel dottore e se lo sport con lo sport sia proprio chiuso, magari un altro tipo di attività è più consigliata. Questo probabilmente nasce da un equivoco. Nasce dalla necessità che il medico sente di tutelare il fisiologico entusiasmo di una persona che è stata operata per ritornare al suo benessere, quindi gli dice vada cauto, certe cose non le faccia. Ma non è un messaggio per la vita, è un messaggio per le prime settimane e i primi mesi. Classico problema che si pone nell'operato di ernia al disco, che dice mio Dio che cosa mi è successo. Non ti è successo niente, ti hanno risolto bene un problema di dolore, però la meccanica, la biomeccanica, la qualità del tuo comportamento sei tu che te ne devi occupare. Nelle prime settimane, nei primi mesi vai cauto, lascia cicatrizzare i tessuti e poi riprendi un'attività fisica prima di un'attività sportiva, perché una delle confusioni è di confondere uno sport tecnico con uno sport che ti allena. Colpire bene una palla da tennis richiede una perizia tecnica, ma la capacità di arrivare in tempo su quella pallina richiede una capacità fisica che non si acquisisce solo con il tennis. Quello che noi ci dimentichiamo è che il nostro corpo non vive nel terzo millennio, il nostro corpo è ancora quello del Pleistocene, il nostro corpo ha delle regole diverse dalle regole di internet e del click del mouse e quindi dobbiamo insegnargli con i tempi del corpo. Lui poi è sincero. Se gli diamo i giusti segnali, lui ci dà i giusti stimoli, lui ci dà i giusti segnali. Quindi, chi ha subito un intervento, chi ha subito un trauma e pensa di non essere in grado, ascolti il proprio corpo e cominci con l'attività fisica. Camminare con delle scarpe a basso impatto, se uno è acquatico usare l'acqua, se uno ha la possibilità di piste ciclabili vive nel verde la bicicletta e come diceva giustamente il dottor Confalonieri, riappropriarsi per tempi brevi, i 30-40 minuti, 2-3 volte alla settimana e capire che il corpo ti risponde. Io vorrei rispondere ad Enrico dalla provincia di Vicenza che è in linea con noi. Enrico, buongiorno. Buongiorno, sono Enrico, scusate l'emozione. No, Enrico, allora, senta, non emozioniamoci, ma andiamo insieme a sentire i mercati, magari ci emozionano loro, il meteo, e poi di nuovo insieme, ed Enrico ci sentiamo subito dopo, 800 24 00 24, tra poco. Enrico, c'è ancora? Sì, ci sono. Buongiorno, lei ha sentito questi dati, vorrei sapere lei a che gruppo appartiene. A quelli che facevo un eccesso di sport, probabilmente, perché facevo 6-4 ore di allenamento quasi tutti i giorni. Veramente? Domenica esclusa. E cosa faceva, scusi? Facevo taekwondo, nuoto e ginnastica. Finché mi allenavo ero sui 64-75 kg, sono alto 1,73 e sono passato di punto in bianco al mito di Homer Simpson, cioè divano e telecomando. Perché Enrico, proprio sono passato, come posso dire, non ne potevo più dello sport e ho detto chiudo, taglio netto. Sì. Ecco, finché mi allenavo, per dire, sull'alimentazione ero in grado tranquillamente di mangiare la sera anche una pizza panaro, quindi quelle familiari, e subito dopo un chilo di gelato. Beh, però ci dava dentro 4-6 ore al giorno. Sì, Ecco. Adesso invece? Diciamo, adesso faccio fatica a mangiare 80 grammi di pasta o di riso e non faccio più il secondo, cioè o primo o secondo. Nonostante questo? 73 kg e sono 2-3 tagli in più. Allora, Enrico, dottor Confalonieri, forse avrebbe bisogno un po' di lei. Ma sì, diciamo che... Tenendo conto che Enrico è simpatico perché la sua molto, descrizione molto. Di Homer Simpson... No, molto. E poi rappresenta, credo, tantissimi ascoltatori o comunque tantissime persone. Perché ha esagerato e adesso deve disintossicarsi. Il problema è quello. Quindi mi sembra corretto che ci sia un tempo per la disintossicazione. E poi ha un grande vantaggio Enrico, che non ha mantenuto... l'appetito, il rapporto col cibo e le abitudini alimentari che aveva quando faceva sport, perché questo è il problema di tanti che smettono, soprattutto di tanti che facevano sport agonistico, che smettono, erano abituati a consumare tanto, continuano a mangiare come prima e quindi vanno rapidamente in sovrappeso anche in modo importante e significativo, quindi questo già è un vantaggio. E io direi che dovrebbe intanto darsi tempo, perché la vita è lunga, c'è tempo per tutti, quindi non avere fretta di recuperare questo rapporto con l'esercizio fisico e con lo sport. Lasciamolo un po' lì. E poi accettarsi per un po' come Homer Simpson sul divano e poi ricominciare con molta lentezza e magari da attività o da situazioni in cui l'attività fisica è legata a un contesto diverso. Quindi penso alla passeggiata in montagna, penso alla nuotata al mare, penso all'uscita in bicicletta, penso alla scoperta della barca con la voga e quant'altro. Cioè situazioni in cui non faccio una cosa per fare sport, non faccio una cosa per mettermi in forma, ma faccio una cosa per stare bene in mezzo alla natura. E come effetto collaterale c'è anche che faccio un po' di attività fisica. In questo modo recupero un rapporto col mio corpo, recupero un rapporto con la fatica e un po' alla volta posso anche ricominciare a fare sport. Anche in questo caso gradualità. Assolutamente. Oltre a questa sorta di pigrizia, diciamo, che per qualcuno, non per Enrico, che era un grande sportivo, però è proprio un po', sembra scritta nel nostro DNA, a spegnere o ad assopire la nostra voglia di fare sport, ci possono essere, l'abbiamo già citato, delle cause esterne, no? Il trauma, ne abbiamo parlato, e ogni sport ha i suoi bersagli preferiti, le gambe, no? Con lo sci, la clavicola, il ciclismo e altri sport da contatto, la caviglia per chi gioca a calcio o a calcetto, ma a volte il danno non è un evento proprio così violento a fermarci, ma è un più che altro un danno da usura. L'abbiamo colto da alcuni interventi e quindi lo sport che alla fine, no, ti usura, ti toglie energie e c'è questo disincanto oppure questo progressivo allontanamento. Quindi abbiamo due situazioni un po' diverse, l'attacco acuto rispetto al danno cronico. Dottor Minola. Questo è un punto molto importante. Nel fare l'attività fisica bisogna avere la capacità di alternare delle attività ad alto impatto, pensiamo ad uno che corre, a delle attività a basso impatto, ad esempio l'acqua o quelle macchine in palestra che si chiamano cross trainer che assomigliano allo sci da fondo. Sì. Se ad esempio una persona per mettersi in forma pensa di andare a correre, dovrebbe analizzare il fatto che la corsa lenta ha molto più impatto negativo sulle ginocchia della corsa veloce. Quindi non importa imporsi il limite corro 40 minuti, ma corri 20 minuti, ma corrili bene, variando il ritmo e guardandoti attorno. Poi... o fai una corsa intervallare, cioè dai tempo al tuo organismo di riprenderti. Ricordati che la corsa lenta assorbe molta più energia nell'impatto di quella veloce, questa non è una nozione semplice. Alterna le attività. Se ami degli sport tecnici, devi però avere una preparazione di fondo e altrimenti non sei in grado di avere quell'efficienza fisica, sei in ritardo e hai traumi. Quindi molte volte questi microtraumatismi nascono da un'attività un po' troppo compulsiva, centrata su una cosa sola. Variamo. Ho capito, ma se me lo dicevi prima. Come prima? Ma sì, se me lo dicevi prima. Prima quando? Ma prima no? Prima si prendono dei contatti, faccio magari una telefonata, al limite faccio un leasing. Se me lo dicevi prima. Ma io bisogno adesso, io sto male adesso. Ho bisogno di lavorare adesso, sto male adesso, sto sempre male adesso. Sto bene, sto male, il lavoro mi che lavoro. Diamo una mano ad un arrampicatore che ci scrive: sono un arrampicatore, arrampico sempre in modo costante 2-3 volte alla settimana per tutto l'anno. Mi capitano però periodi, circa 2-3 mesi all'anno, 2-3 volte all'anno, che perdo l'entusiasmo e la voglia. Voi date sempre ottimi consigli, ma su questo, trucchetti? Sì, trucchetti, qualche trucchetto sì. Ci scappa. Ci può essere un modo per evitare di perdere la motivazione? Quindi diciamoglielo prima. Ma sì, sono contento di questo messaggio, anche perché tanti sono quelli che si dedicano all'arrampicata, alla montagna, che magari qualche volta si sentono trascurati, anche se un po' di tempo gliel'abbiamo dedicato. Ma qua il trucchetto è proprio quello di variare, un po' quello che diceva il dottor Minola prima, l'alternanza di uno sport di base con uno sport ad alto contenuto tecnico. Cioè, purtroppo, dedicarci sempre e soltanto ad un'attività, anche se rappresenta una passione, porta ad un esaurimento in termini di motivazione psicologica e porta ad un sovraccarico dal punto di vista fisico. Quindi due fattori che ci portano a smettere. Quindi sarebbe fondamentale, per esempio nell'arco della stagione, alternare attività diverse. Il ragazzo arrampica. Quando non arrampica può dedicarsi al nuoto, può dedicarsi alla camminata, può dedicarsi questo alla bicicletta. Questo è valido, l'alternanza è valida solo con lo sport e la dieta. No, l'alternanza è valida comunque con lo sport, perché fare attività diverse, l'attività aerobica di resistenza e l'attività tipo arrampicata è sicuramente valido. Con la dieta è valido, nella vita non mi sento di dare questo tipo di consiglio. Quindi? Potrebbe essere valida anche nella vita. 800 24 00 24, dottor Minola. C'è un atteggiamento nel lavoro che è quello che viene definito work alcoholic, e c'è anche lo sport alcoholic, cioè lo stesso atteggiamento non deve essere riservato nello sport. Lo sport deve essere fatto in modo tale che noi capiamo meglio il nostro organismo ed entriamo in empatia con il nostro corpo. E quindi qualche volta un'attività che non fa altro che ripetere i nostri comportamenti sul lavoro ci crea lo stesso senso, può creare lo stesso senso di frustrazione che uno vive con l'attività lavorativa. Sto vedendo Gigi Donelli che sta passando, lui, abbiamo parlato tante volte con lui, è un maratoneta, e insomma è un... lui mi sta facendo segno, mezzo maratoneta? Quasi, no... Un fondista, ecco, però è scolpito, che fisico ha, dottor Confalonieri? Non mi paragono per no, per... ma adesso così. Allora, noi ogni tanto facciamo questi complimenti, sì, no? Perché sì, ci piace, quindi se volete farceli anche voi ci tiriamo su. Flaminia da Piacenza, buongiorno. Flaminia, intanto benvenuta. Grazie. Io faccio l'infermiera, lavoro a pronto soccorso ortopedico, quindi intanto vi posso confermare che lo sport senz'altro fa molto male, nel senso che noi lo vediamo tutti i giorni. Poi oltretutto Piacenza purtroppo per fortuna è ricca, nel senso che abbiamo la Val Trebbia, per cui d'estate abbiamo i motociclisti, abbiamo 2-3 squadre di rugby con tutte le loro giovanili, abbiamo ovviamente le squadre di calcio, abbiamo la pallavolo, abbiamo anche le piste da sci, per cui tutto l'anno non vi fate mancare nulla, è il paradiso che... degli ortopedici. Esatto. No, scherzi a parte, io stessa ho avuto dei problemi a un ginocchio tempo fa e i miei medici l'hanno ovviamente riscontrato, mi hanno spedito in palestra. Io avevo determinate idee. Lei mi scusi, come ha fatto a farsi male? Non mi sono fatta male, praticamente ho una... un danno alla cartilagine tra il femore e la rotula. Comunque il discorso è che l'idea era quella di potenziare la muscolatura della coscia e per cercare di limitare i danni. Io mi sono iscritta in palestra, ho avuto dei colloqui con gli istruttori, mi sono trovata molto bene, loro mi hanno trovato una serie di esercizi da fare con come lo volevo io, nel senso che a me piacevano le macchine con i pesi, per cui mi hanno trovato esercizi da fare idonei con le macchine. Quindi tutto bene, ma? Mi hanno sistemato la gamba, la muscolatura è tornata a posto, il ginocchio non mi fa quasi più male. Stiamo aspettando qualcosa che non funziona, però. Ho sistemato nel senso che ho aumentato i pesi, la quantità di peso che riesco a fare, quindi il miglioramento c'è stato. Non mi piace la musica, per cui avevo trovato addirittura gli audiolibri intanto che correvo sul tapirulan per aiutarmi in questo. Ci sono andata per un anno e mezzo, ho trovato degli ottimi risultati, ho smesso di andarci. Perché? Perché? Perché lo giriamo allora al dottor Confalonieri e al dottor Minola? Perché alla fine è troppo, no? Tutto troppo probabilmente... tagliato su misura per lei, no? Sì, probabilmente non era persona palestra, ha risolto il problema acuto, forse finita la palestra era meglio che prendesse una bicicletta, usasse il piacentino che per la bicicletta è straordinario e riscoprisse le strade del piacentino, ma forse adesso dobbiamo... Bravo, le strade! E noi siamo tornati e andiamo a Roma, c'è Alessandro, buongiorno! Ah, buongiorno! Buongiorno, che sta facendo? Io sto andando in ufficio. A piedi o usa i mezzi? Lei ha presente cosa sia Roma? I mezzi sono impossibili. No, sto andando con la macchina, sto andando. Allora le teniamo un po' di compagnia. Però... Sì, però c'è da dire questo, che io, così dice, grazie ai miei genitori ho fatto per tantissimo tempo sport, ho fatto 5 anni di, come si chiama, di nuoto. 8 anni di scherma, mi sono piaciuti tantissimo, poi in seguito un incidente per cui mi si è lesionato il crociato destro e quello sinistro, lo spostamento del dente dell'epistrofeo, il medico mi disse, guardi, lasci perdere scherma, basket, pallavolo, gli sport che a me piacevano. E allora? Le dico una cosa, cioè io volevo sapere se c'è un sport che potevo fare, l'unico problema è che non mi dica nuoto perché non ne posso più, cioè quello ma veramente masturbato. Quindi no nuoto, no ballo, no arrampicata, no... No, anche come si chiama, camminate, perché no. Ahimè non riesco a stare... Senta Alessandro, Alessandro, lei è un tipo un po' difficilino, dottor Minola, no questo, non l'altro, Alessandro scherzo, No, perché anch'io ci scherzo sopra. Questo è un caso difficile, dottor Minola? No. Io lo metterei sulle arti marziali. No, nello specifico di Alessandro deve solo fare una valutazione, un riaggiornamento che oggi si può fare con tramite un buon specialista, con dei semplici esami, capire se esiste un residuo danno meccanico o se semplicemente bisogna ritornare alle attività che lui vuole, utilizzando un medico sportivo che lo reintroduce con un programma di gradualità. E voilà! Ed è fatta. È semplice, Alessandro, ci faccia sapere. E adesso dall'attività sportiva noi passiamo all'attività della ricerca. Perché? Perché dall'America arriva una notizia che potrebbe portarci a riconsiderare, forse a riscrivere, la definizione di esistenza. Tutto merito di un batterio. Merito, poi vedremo, che si mantiene in vita nutrendosi di una sostanza velenosa per qualsiasi altro abitante della Terra, l'arsenico. Insomma, la vita non finisce mai di stupirci e ci stupirà, con la sua lettura, la professoressa Gismondo, direttore del Dipartimento di Microbiologia Clinica al Polo Universitario dell'Ospedale Sacco di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Lei ci stupirà sempre con effetti speciali, perché le notizie, come le legge lei, le leggono in pochi. Che troppo cosa... buona. Senta, qualcuno parla di batterio extraterrestre, una sorta di ET. Lei è d'accordo? No, innanzitutto è terrestre perché, come tutti ormai sapranno dai giornali, è stato isolato proprio sulla Terra, quindi è assolutamente terrestre. E sicuramente alieno rispetto alle nostre attuali conoscenze, perché noi eravamo arroccati su una conoscenza abbastanza consolidata nel tempo, non solo del fatto che l'arsenico fosse una sostanza, un elemento tossico per la maggior parte dei viventi sulla Terra, ma la notizia strabiliante è che in effetti questo batterio utilizza l'arsenico proprio al posto del fosforo, che è stato per ormai decenni e decenni la base dell'ATP, cioè del metabolismo che produce energia nelle cellule. Quindi